7. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco. Grande musica sempre qui su RMC, era LP con Other People, questo è K is in the air. KK e venerdì everybody, e vi salutiamo dalla nostra bellissima sede nel Principato di Monaco. Insieme a me come sempre ci sono my boys, Giulio Bartolomei in redazione, Mirko Robaldo in regia. Anche oggi vi faremo compagnia fino alle ore 18 e ho tante cose carine da raccontarvi. Andremo nel deserto in una casa fatta di specchi. Poi voleremo in Inghilterra in una vera scuola di magia ispirata a Harry Potter. Poi andremo in Nigeria per parlare delle donne scrittrici molto coraggiose. Ma ora andiamo avanti con la musica con Simply Red, Sunrise. from the walls to connect, inspire. Up in all your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people. They stumbling and fumbling and we about to riot. They woke up the liars. Freaking bad, buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of Everyday Christmas. Give Trappy a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, here, lady, have this. And last but not least, grant somebody the last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travis Claus, minus the ho-ho. Get it? I'll probably visit with Katrina hit. And damn sure do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme music. Oh, every time I close my eyes, what you see, bro? I see my name in shiny lights. Uh-huh. Oh, yeah, yeah. A different city every night. President, dunking on his delegates. Then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million, the air just for the heck of it. But keep the 520 tins and bins completely separate. Yeah, I be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I probably take whatever's left and just split it up. So everybody that I look can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire, so freaking bad. So bad. Buy all of the things I never had. Buy everything. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? Oh, every time I close my eyes, what you see, bro? I see my name in shiny lights. Uh-huh. Oh, yeah, yeah. A different city every night. Questa è Case in the Air su Radio Monte Carlo, sono Kay Rush. Adesso andiamo al Desert X, un festival nel deserto della Coachella Valley in California. È un festival che consiste in installazioni da parte di 15 artisti diversi. E oggi parliamo dell'artista Doug Atkin, che ha creato Mirage, una casa dalle superfici a specchio che riflette tutto il paesaggio intorno. È impressionante perché da lontano sembra un miraggio. Comunque, più che una casa, è un esperimento, dice Doug Atkin. un esperimento per indagare su quanto possa diventare fluida la relazione tra architettura e l'ambiente, perché per quanto possa essere bella, questa casa non è molto pratica perché è priva di porte e finestre, però è molto molto bella, è una gran bella idea. Is in the air. Radio Monte Carlo. Grande musica. Grandi Duran Duran qui su Radio Monte Carlo, ed ecco una news per i fans di Harry Potter. A breve aprirà nel Sussex la scuola di magia di Bothwell presso il castello di Hurstmonceux. A partire dal prossimo agosto sarà possibile passare 3 giorni nella scuola, soggiornando nel castello e partecipando ad iniziative create appositamente per i Potterheads. Ad ogni persona verrà assegnato un personaggio da interpretare ed ogni gruppo avrà un mistero da risolvere e si potrà partecipare inoltre alle lezioni di magia. Dunque, per i ragazzini anni, potrebbe essere un'esperienza molto divertente. Ascoltiamo adesso Francesco Gabbani con Occidentalis Karma. Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili, cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada pantarei, singing in the rain. Di Chanel su corpi assettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili, tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri, cercasi umanità virtuale, sex appeal, comunque vada pantarei. Vita si distrae, cadono gli uomini, occidentali scarma. Occidentali scarma. La scimmia si rialza. Namaste. Radio Monte Carlo. Musica di gran classe. did you do this for? Settle down for a little bit, you look like any other fool I know. Why would you say it like that? Don't you know dreams really come true when you give away your heart like that? So in the meantime, I'm thinking about it. Let it go, let it go, it'll all fix itself. I'm thinking about it. Let it go, let it go. I'm thinking about it. Let it go, let it go, it'll all fix itself. I'm thinking about it. I'm thinking about it. So hard, and you can't wait to get out of this basement. But if I take you this far, you kill me just to find a replacement. So in the meantime, I'm thinking about it. Let it go, let it go, it'll all fix itself. I'm thinking about it. About it. There's a really good thing right in front of my eyes. Right in front of my eyes, your eyes. There's a really good thing right in front of my eyes. Right in front of my eyes. Grande musica, grande Radio Monte Carlo, era Nathan Goshen con Thinking About It, Let It Go. Nel nord della Nigeria è in vigore la Sharia, che è la legge islamica, ma questo non impedisce a un gruppo di giovani scrittrici di pubblicare i propri libri che sfidano molti tabù. Sono storie di drammi familiari, alcune sono riletture anche dalla fiaba di Cenerentola, e altre sono storie più cupe che affrontano temi molto delicati. Le donne scrivono a mano, trascrivono il testo al computer, pagano la stampa di poche centinaia di copie e vendono privatamente i loro libri nei mercati locali. Ma che coraggio che hanno queste donne, brave! A Radio Monte Carlo con Actimel. Vinci una cabrio, sfida l'inverno. Alza il tappo e scopri subito se hai vinto una mini cabrio. Il concorso scade il 30 aprile, montepremi 60.200 euro, regolamento su actimel.it. Benvenuti nel club più esclusivo. Welcome to RMC VIP Lounge. RMC VIP Lounge. International top DJs. You're listening to RMC VIP Lounge. Sophisticated music. Irresistible grooves. Feel the bass. RMC Touch. Special DJ set. Radio Monte Carlo e RMC 2 presentano RMC VIP Lounge. Melanie e Stella vi porta nel mondo di RMC VIP Lounge, il nuovo radio show dedicato al sound dei club più esclusivi del mondo. Questa sera dalle 22. Dalle 22. RMC VIP Lounge. Special guests Jamie Lewis from Purple Music. The nel mondo del lavoro non si era mai sentita. Un'offerta così pesante. Oggi fiorino con clima e porta laterale scorrevole può essere tuo con 4.500 euro di vantaggi. Offerta valida con qualsiasi usato fino al 31 marzo. Info e condizioni su fiatprofessional.it. Ti aspettiamo in concessionaria. Fiat Professional, professionisti come te. Imparate dal vostro gatto, rilassatevi, ma in primavera andate a caccia. A marzo da Iperceramica super sconti dappertutto, cacciateli anche voi. Negozi Iperceramica, prezzi super, qualità iper. Iperceramica.it. Miau. Luca, l'hai rotta? No, l'ho rottamata. Lo sanno anche i bambini. Continua la super rottamazione Opel. Su corsa fino a 5.000 euro per qualsiasi auto da rottamare, anche con meno di 10 anni. Gamma corsa da 9.750 euro, solo a marzo. Fidatevi di Famila, ascoltate questa storia. Il signor Fiasconi conosceva così bene il vino che nessuno stappo lo stupiva più. Ma un giorno entrò in Famila e scoprì le vie dell'uva. Eccellenti vini da tutta Italia che lo lasciarono a bocca aperta, ma non a bocca asciutta. E per la convenienza si innamorò di una falanghina. E tu, di chi ti innamorerai? Fino al 12 marzo al Famila, le vie dell'uva. Grande scelta di vini in offerta. Famila, risparmi senza rinunciare alla qualità. Che ti piaccia correre? 2%, 2%, 2%. Cantare? 2%. Fare yoga? 2%. Qualunque sia la tua passione, apri conto corrente Arancio. Accredita lo stipendio e con conto Arancio prendi il 2% sulle somme che scegli di vincolare per 6 mesi. Promozione valida fino al 22 aprile 2017. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni e il regolamento della promozione, i fogli informativi e la documentazione contrattuale, vieni in filiale o su ingidirect.it. 2%? E basta però. Liberi professionisti, ma voi vi sentite davvero liberi? Liberi da vincoli, liberi da penali, liberi da rischi, liberi professionisti, liberi tutti. Grazie ad Alfa Romeo e Lisis nasce Bfree Pro. Giulia, tu a 449 euro al mese con anticipo zero e siete liberi dal bollo, dall'assicurazione e liberi di restituire la vostra auto dopo 24 mesi senza penali. Con Bfree Pro, più libertà al vostro business. Offerta valida fino al 31 marzo per i liberi professionisti. Info e condizioni su alfaromeo.it. Nuova passata di pomodoro origine Coop, a soli 59 centesimi in bottiglia da 700 grammi. È controllata dal campo allo scaffale, anzi alla mia tavola. È lì che finisce la filiera, no? Passata Coop, buona e conveniente come la vuoi tu, perché la Coop sei tu. Pensiero di stile numero 3. Le mode ritornano per farsi ricordare. Lo stile non ne ha bisogno. Libera il tuo stile con nuova Y unica. Gamma Y da 9.600 euro e con finanziamento meno 1.000. Tua da 8.600 euro oltre oneri finanziari. Solo fino al 31 marzo su vetture in pronta consegna. In caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione FCA Bank. TAN 595, TAG 944. Info su lancia.it. Scoprila sabato e domenica. Ragazzi, c'è da trovare il nome per la nuova promozione poltrone sofà. Ma cosa ne sappiamo noi? Siamo artigiani. Beh dai, proviamoci. Ma deve essere una roba forte, eh? Super mega sconti. Ma no, molto di più. Iper saldoni? Molto, molto di più. Ce l'ho, super maxi saldazzi. Ma molto, molto di più. Molto più dei saldi in poltrone sofà. Sulla nuova collezione risparmi fino al 60% e puoi pagare un po' per volta. Ti aspettiamo. Il molto più dei saldi termina domenica. Poltrone sofà. Artigiani della qualità. Buongiorno. Buongiorno. Posso aiutarla? Sì. Che mi dice di questa Audi Q3 usata? Questo è Barone Rombante, pronipote della carrozza di Maria Antonietta che lasciò la Francia prima della rivoluzione. Con 110 controlli e 4 anni di garanzia, sul passato delle vetture Audi prima scelta Plus c'è così poco da dire che bisogna inventarselo. La certezza dell'usato targato Audi vi aspetta presso le concessionarie Audi prima scelta Plus e su Audi.it. Audi prima scelta Plus, l'usato senza il suo passato. RMC Trilogy. Dedicated to Seal. There used to be a grey tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remains a drug that's high and not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen. Baby, I can fade to a kiss from a rose on the grave. Ooh, Tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen? RMC Trilogy. Trilogy. Trilogy. A man decides after 70 years that what he goes there for is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. Fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. Tre canzoni per Seal. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by, walk on by, make believe that you don't see the tears, just let me nel nostro appuntamento Trilogy c'era il bravissimo Seal. Se volete comunicare con noi, vi ricordo il nostro numero SMS e WhatsApp 342 414 1762, e la grande musica di Radio Monte Carlo continua con Biffy Clyro, Rearrange. Songs to me. Monte Carlo. Musica di gran classe. Wherever you go, whatever you do, I'll Siamo arrivati alla fine della prima ora di Case in the Air. Passiamo dunque la linea alla nostra mitica redazione e poi torneremo tra poco con la seconda ora. I'll be right back. Case in the Air. Case in the Air. Welcome to Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Solo musica di gran classe. KK, siamo qui con la seconda ora di K is in the air, che abbiamo iniziato con il mitico Donald Fagen, IGY. E noi siamo sempre qui in diretta dal Principato di Monaco, dove oggi splende il sole, che bello. E in questa seconda ora parleremo di un game, applicazione creata per le persone anziane, così si divertono un po'. Andremo anche nella biblioteca pubblica di New York per ascoltare Lou Reed e scopriremo cosa ci offre gratis l'Università di Princeton. Ma ora ascoltiamo insieme a Samuel con Vedrà. Se siamo ancora qui, vuol dire che un motivo c'è. Lascia qualcosa tra le braccia e non questa distanza che mi sputa in faccia. Se siamo ancora qui ad imparare come illuderci, a preoccuparci della verità, vedrai che poi il tempo non ci tradirà. Sotto un vento di libeccio che dall'Africa soffia lieve su di noi la sua sabbia. Vedrai che riusciremo a dare ancora un nome a tutte le paure che ci fanno tremare e troveremo il modo per dimenticare la noia, l'abitudine, la delusione. Vedrai che i desideri si riaccenderanno, ricostruiremo il luogo in cui poi vivranno, perché noi siamo l'unica benedizione, l'unica tragedia, l'unica ambizione. Se siamo ancora qui ad ignorare le difficoltà, impareremo anche a comprendere che esiste un buon motivo per insistere. Sotto un vento di libeccio che dall'Africa soffia lieve su di noi la sua sabbia. Vedrai che riusciremo a dare ancora un nome a tutte le paure che ci fanno tremare e troveremo il modo per dimenticare la noia, l'abitudine, la delusione. Vedrai che i desideri si riaccenderanno, siamo l'unica benedizione, l'unica tragedia, l'unica ambizione. Dovremmo solo ricominciare a respirare, a navigare. Dovrai soltanto dimenticare la noia, il vuoto, la perfezione. Vedrai che riusciremo a dare ancora un nome paure che ci fanno tremare e troveremo il modo per dimenticare la noia, l'abitudine, la delusione. Vedrai che i desideri si riaccenderanno, ricostruiremo il luogo in cui poi vivranno, perché noi siamo l'unica benedizione, l'unica tragedia, l'unica ambizione. Radio Monte Carlo, musica di gran classe. can't rely on you, babe. Even though I want to. Waiting around, you're running late. Apologies overdue. Tie me down so you can wear your crown. Use a different face to get your own way. Those crocodile tears. Can't you see that you're not royalty? Pulling me along, treating me wrong. My biggest fear. Never satisfied, you're always needing more. A little more, always more. Everybody says that I should leave ya. Mood swing back and forth just like the seasons. And I'm stuck in the middle, breaking even. What do I do? Do do do do do do do do do do do do. There ain't no profit from your love. Losing all my value. And if you think I'm not enough, no, then good luck on finding someone to put up with you, no. Tie me down so you can wear your crown. Use a different face to get your own way. Those crocodile tears. Can't you see the joy of royalty? Pulling me along, treating me wrong. My biggest fear. Never satisfied, you always needing more. A little more, always more. Princess in a castle, you're a diva. Everybody says that I should leave ya. Seasons on. I'm stuck in the middle, breaking even. What do I do? Do do do do do do do do. Tell me what to do with you, baby. Keep acting like a diva. You know I'm gonna leave you. La grande musica non si ferma mai qui su Radio Monte Carlo. Era Sunny con Princess. E adesso con Kay is in the Air andiamo in Giappone, dove una signora ottantenne, Masako Wakamiya, ha creato una game applicazione per smartphone adatta alle donne anziane. In 6 mesi ha imparato le nozioni necessarie per fare un'app, e già questo in sé è un grande traguardo. Poi la scorsa settimana ha lanciato la sua applicazione Hinadanna, che è il nome della festa delle donne o delle ragazze che si celebra ogni anno a marzo in Giappone come da noi. Il gioco consiste nel posizionare in maniera corretta 12 bambole giapponesi, però non vince chi finisce più velocemente, ma chi conosce meglio la cultura del Giappone, ed è qui dove gli anziani giapponesi eccellono. Is in the air. Radio Monte Carlo. Great music. Queste Case in the Air sono K-Rush, adesso andiamo negli Stati Uniti. Il progetto Blue Mountain dell'Università di Princeton ha reso disponibili in free download riviste dimenticate legate a movimenti che oggi per noi sono storia, ma all'epoca erano fin troppo in anticipo sui tempi, per esempio riviste dedicate al Dada, al surrealismo e al futurismo. Tra i nomi dei collaboratori di questi magazine troviamo Guillaume Apollinaire, Antonin Artaud, il compositore Eric Satie e tra gli italiani Marinette e Giacomo Balla. Un grande grazie a Princeton. La grande musica è sempre qui su Radio Monte Carlo. Ascoltiamo Emily Sandé con Breathing Underwater. I believe in miracles, 'cause it's a miracle I'm here. Guess you could call me spiritual, 'cause physical is fear. And it's safe to say the storm's gonna win, and I'm dancing on the morning after. It's enough to stay, but my home's the other way, and I miss the love and laughter. Lasciamoci così, perché un legame sempre resterà. Pregherò, piangerò. pregherò. Change what we can, see the world the best that we know how. But now I'm left alone, left without a word. Now I'm so breathless, now I'm weightless. Never have I been so burned before. Me. Nostro amico Mario Biondi con Stay With Me, questa era di Monte Carlo. Adesso andiamo a New York alla Biblioteca Pubblica, dove presto sarà reso disponibile l'archivio del cantautore Lou Reed. La collezione comprende registrazioni ufficiali, cimeli, fotografie, biglietti, cartoline e 3.000 registrazioni casalinghe inedite, sia audio che video. Il materiale parte degli anni del liceo fino a passare per il periodo Velvet Underground, per poi arrivare agli ultimi documenti datati 2013, l'anno della sua morte. Lou Reed è un mito e la Biblioteca Pubblica di New York è un gran bel posto. RMC Soundtrack. La musica dei grandi film. Dal film Pretty Woman, Roy Orbison con Pretty Woman. La canzone di Roy Orbison, Pretty Woman, qui su Radio Monte Carlo in Case in the Air. Vi ricordo che se volete comunicare con noi è molto facile, siamo in Facebook, la pagina è Radio Monte Carlo. Approfitto per salutare tutti i nostri amici che ci scrivono tutti i giorni. Siamo anche in Twitter, RMC_official. Vi ricordo anche il nostro numero SMS e WhatsApp, 342 414 1762. Ascoltiamo adesso All Night di Parov Stellar. Let's ride. Our love is strong as a lion, soft as the cotton you lying. Times we got hot like an iron, you and I. Our hearts had never been broken. We were so innocent, darling. We used to talk till the morning, you and I. September song, summer lasted too long. Time moved so slowly. When you're only 15, you were my September song. Tell me, where have you gone? Do you remember me? We were only 15. And I remember the chorus. They were singing it for us. Sometimes I think that I see her facing the strangest of places, down on the underground station, passing by. I get a mad sense of danger, feel like my heart couldn't take it, 'cause if we met we'd be strangers, you and I. Still I play that mixtape every weekend. Got it repeating. Got it repeating. September song, summer lasted too long. Ooh, time moved so slowly, so slowly. When you're only 15, you were my September song. Tell me, where have you gone? Ooh, do you remember me? Oh, we were only 15. And I remember the chorus. They were singing it for us. Anche per oggi dal Principato di Monaco è tutto. Ci sentiamo lunedì. Saluto my boys Mirko Robaldo e Giulio Bartolomei e vi auguriamo un bellissimo weekend sempre in compagnia di Radio Monte Carlo. Passiamo subito la linea alla nostra redazione per le breaking news. Bye bye from KK.